Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, déjà la saison, déjà. Questo è un omaggio doveroso a Juliette Gréco, care ascoltatrici, cari ascoltatori, che se n'è andata a 93 anni, un simbolo, un'icona della canzone francese e anche della cultura francese. È stata una esponente importante dell'esistenzialismo, ha conosciuto tanti filosofi e grandi figure della cultura francese e mondiale. E poi parleremo di molte cose naturalmente durante questa puntata, a parte ricordarvi appunto, a parte questo omaggio, ricordavi Juliette Gréco, parleremo dell'accordo che la Commissione europea ha proposto sui migranti, con la soddisfazione in parte dal Presidente del Consiglio Conte, con qualcuno che come al solito si tira indietro. Insomma, cercheremo di capire più nel dettaglio in cosa consista questo accordo. E poi torneremo sulla politica, perché cominciano un po' a tirare le fila i vari leader dei partiti, ci sono malumori, ci sono rivendicazioni, ci sono rinfacci, eccetera eccetera, e quindi ancora una volta, a tre giorni dalla tornata elettorale, ci torneremo, così come ci soffermeremo sugli sviluppi del duplice omicidio, dell'inchiesta sul duplice omicidio terribile che c'è stato a Lecce. Prima naturalmente degli ospiti, sintesi della giornata. Migranti, arriva il nuovo patto europeo che prevede solidarietà obbligatoria, redistribuzione oppure rimpatri sponsorizzati. Il no di Vienna e Praga per Conte è un passo importante. Il coronavirus in Italia, record di tamponi e contagi stabili. In quarantena anche la ministra Catalfo. Il Financial Times loda il nostro paese per la gestione del Covid e il virus intanto corre in Europa. Politica italiana, dopo l'esito della tornata elettorale, Zingaretti chiede un colpo d'ala alla maggioranza, mentre Toti, confermato presidente della Liguria, chiede a Salvini una costituzione del centrodestra. Il duplice omicidio di Lecce, c'è un sospettato, un uomo di 37 anni, l'autopsia intanto sul corpo della giovane donna evidenzia la ferocia dell'attacco. L'esame di Suarez all'Università di Perugia, anche la procura della FIGC apre un'indagine. Addio a Juliette Gréco, a 93 anni se n'è andata una grande icona della canzone e della cultura francese. Partiamo quindi dalla politica italiana, alle prese con i riposizionamenti dopo il risultato di referendum regionali. Nel centrodestra c'è la proposta del presidente della Liguria Giovanni Toti, dice Salvini, lanci una vera costituente del nuovo centrodestra e il governo intanto spinge sulle riforme. Archiviate le regionali, la maggioranza prova ad accelerare sulle riforme, a spingere è soprattutto il Partito Democratico. Il segretario Dem Nicola Zingaretti chiede agli alleati di rafforzare l'identità della coalizione. Dobbiamo gestire insieme il Recovery Fund, che è un'opportunità di crescita, occorre una visione comune ed è importante che ci sia un protagonismo comune di tutte le forze che sostengono questo governo. Tra i 5 Stelle però resta alta la tensione dopo la debacle alle regionali. Abbiamo tanto da dare al paese e serve il contributo di tutti, interviene il ministro degli esteri Luigi Di Maio provando a stemperare le polemiche. Roberto Fico risponde invece ad Alessandro Di Battista, quella di domenica non è stata una sconfitta storica, si va avanti con questo governo e con questa maggioranza, afferma il presidente della Camera. Giovedì intanto si riunirà l'Assemblea dei deputati e dei senatori pentastellati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso passiamo agli aggiornamenti sulla pandemia. A fronte di quasi 104.000 tamponi effettuati, il numero più alto di sempre, sono 1.640 i nuovi positivi in Italia, 250 in più dei precedenti. 20 le vittime, ieri 14, i ricoverati in terapia intensiva sono 5 in più, ma continua a crescere anche il numero dei guariti, che sono stati quasi 1.000 nelle ultime 24 ore. Nessuna regione ha zero contagi, i maggiori casi si sono avuti in Campania, 248, in Lazio 195 e in Lombardia, che ha registrato 196 nuovi contagi, ma nessuna vittima. Positivo al Covid anche il difensore Leo Duarte, ora in isolamento. Lo ha annunciato il Milan informando che tutti gli altri membri del team negativi saranno sottoposti a nuovi test in vista dell'imminente partita con il Bodo Glimt. In autoisolamento, questa volta precauzionale, anche il ministro del lavoro Nunzia Catalfo, che ha scoperto di essere entrata in contatto con una persona poi risultata positiva. I due tamponi a cui il ministro si è già sottoposto hanno dato esito negativo. Intanto la nostra gestione del virus ha avuto riconoscimenti anche sulle pagine del Financial Times. Secondo il quotidiano economico inglese, la dura lezione imparata a marzo ci ha permesso di tenere sotto controllo la pandemia grazie alle capacità di adattamento dimostrate, mentre Spagna, Francia e Regno Unito, scrive il giornale inglese, soffrono ora una ripresa del Covid. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I viaggi di Radio 24. Quindi la pandemia continua la sua corsa, cambia il volto, le abitudini delle città, non solo in Italia. Allora nel nostro viaggio andiamo ora nella capitale delle istituzioni europee, andiamo nel cuore della Germania, a Francoforte. Francoforte è una città finanziaria, è laboriosa, silenziosa, ordinata e lo è ancora di più adesso, sottoposta alla disciplina dei tempi pandemici. I grattacieli che rendono famoso questo centro finanziario, come quello della Banca Centrale Europea o della Deutsche Bank, sembrano cattedrali nel deserto. Non c'è più quel via vai agli ingressi, quel brulicare in strada di tante giacche blu e di tailleur. I ciclisti in compenso sono tanti, sfrecciano ovunque, ma erano già tanti prima del coronavirus. Nei negozi, nei supermercati, nei centri commerciali, cartelli e strisce in terra ovunque ti ricordano il distanziamento e tanti qui lo rispettano, al millimetro. Passeggiavo l'altro giorno lungo la stradina che dalla BCE porta al fiume Meno. Un bimbetto, avrà avuto neanche 10 anni, mi affianca a passo spedito. Ha uno zaino pesante in spalla, calzoncini corti, una magliettina estiva a strisce. Rallenta, come assorto nei suoi pensieri, poi inizia a correre. Lo osservo. Indossa la mascherina. Ecco, Francoforte è così, tranquilla, ma consapevole ovunque che il coronavirus c'è. Isabella Bufacchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E i casi di coronavirus finora accertati in Europa hanno superato la soglia dei 5 milioni, questo emerge da un conteggio dell'agenzia di stampa France Press. Niente finanziaria d'autunno quest'anno nel Regno Unito a causa proprio dell'impatto sull'economia dell'emergenza coronavirus. Il governo britannico annuncia un nuovo picco. In 24 ore altri 6.178 contagi su 220.000 test. E il premier Boris Johnson risponde alle contestazioni in un question time. Perché in Germania e Italia, gli chiede il deputato Ben Bradshaw, i contagi sono maggiormente sotto controllo? Our country is a freedom-loving country. Perché è difficile far rispettare delle restrizioni agli inglesi, ha risposto, da sempre all'avanguardia per libertà di pensiero e democrazia. In Francia il ministro della Salute, Olivier Véran, annuncia una nuova cartografia dell'epidemia che farà passare diverse città francesi in categoria super rosso o scarlatto con nuove misure. E mentre l'Austria cancella il ballo dell'Opera di Vienna, in programma a febbraio, e in Germania il ministro degli esteri Heiko Maas si sottopone per precauzione a un periodo di quarantena dopo aver scoperto che un addetto alla sicurezza è positivo, il Belgio va in controtendenza. Anche se il paese è tornato zona rossa sulla mappa del Centro Europeo di Controllo dell'Epidemia, sparisce la mascherina all'aperto e si accorcia il tempo della quarantena. Il virus è sempre là, ha detto la premier belga Sophie Wilmès, ma la vita deve continuare in modo da tenere sotto controllo l'epidemia. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Immigrazione, arriva il nuovo patto per le migrazioni voluto dalla Commissione Europea, una riforma di Dublino per non far gravare tutto il peso degli arrivi sui paesi di primo ingresso e poi è previsto un meccanismo di solidarietà obbligatorio verso i paesi sotto pressione. Il Presidente del Consiglio Conte ha commentato dicendo che è un passo importante verso una politica migratoria davvero europea. Intanto Vienna e Praga non condividono la proposta, ma poi ce la faremo raccontare meglio nel dettaglio. E passiamo alla cronaca col duplice omicidio di Lecce. Un uomo di 37 anni, residente ad Aradeo, viene ascoltato in procura a Lecce. Si tratterebbe di un edicolante del posto e sospettato di essere l'autore dell'omicidio del giovane arbitro salentino Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Il suo nome di battesimo è Andrea e coincide con quanto riferito da alcuni testimoni della palazzina che hanno detto agli investigatori di aver sentito urlare Eleonora Manta, proprio quel nome, rivolgendosi all'assassino di fermarsi. Poi torneremo sugli sviluppi di questa inchiesta. All'estero, l'oppositore russo Navalny è stato dimesso dall'ospedale berlinese dove era ricoverato per avvelenamento e pare che ci siano delle buone chance perché possa guarire del tutto. Per Mosca è libero di tornare in Russia, ma resterà a curarsi in Germania. E poi in Bielorussia, secondo quanto riferito dai testimoni oculari all'agenzia Interfax a Minsk, capitale della Bielorussia, ci sarebbero almeno due feriti a causa dell'uso degli idranti da parte della polizia, incluso una persona anziana. Nel frattempo la polizia continua a detenere persone in varie parti del centro di Minsk, almeno 50 persone secondo i testimoni, in particolare davanti al Palazzo dello Sport in Piazza Ottobre. La polizia ha bloccato molte strade mentre avrebbe usato i gas lacrimogeni vicino al centro commerciale Galereia. E nel frattempo il presidente bielorusso Lukashenko ha giurato, si è insediato per la sesta volta alla guida del paese. Alla cerimonia il contestato presidente ha sostenuto che nel paese è fallita una rivoluzione colorata, ma l'opposizione annuncia proteste ad oltranza. Di nuovo in Italia adesso con un'inchiesta, un nuovo blitz della Guardia di Finanza di Pavia. Nell'inchiesta con al centro l'accordo tra la multinazionale Diasorin e il Policlinico San Matteo per lo sviluppo dei test sierologici e molecolari per la diagnosi del Covid. I finanzieri sono andati a casa del governatore della Lombardia, Fontana, per acquisire i messaggi della chat nel suo cellulare. Stessa operazione eseguita al telefono di Giulia Martinelli, responsabile della segreteria del presidente Lombardo, ex compagna del leader della Lega Salvini. Nessuno dei due è indagato e il legale di Fontana dice si tratta di un atto di dubbia costituzionalità. Il capo dell'antiterrorismo di Brescia e la Digos stanno seguendo le indagini sul pacco bomba recapitato al leader di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini, a cui la prefettura ha assegnato la scorta. Nuove intimidazioni al mondo delle imprese. Un pacco bomba arriva al presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini, ultimo imprenditore a finire sotto scorta in pochi mesi. Polvere da sparo e detonatore, l'ordigno rudimentale recapitato al gruppo Feralpi di Lonato del Garda è stato aperto dal patron dell'azienda siderurgica. Nessuna rivendicazione, nessuna conseguenza per chi lo ha avuto tra le mani, ma quel pacco bomba, anche se non avrebbe potuto esplodere, confermano gli artificieri, avrebbe potuto di sicuro innescare una fiammata. In queste ore gli investigatori mettono in fila analogie e differenze con attentati, spesso di matrice anarco-insurrezionalista, avvenuti in zona contro alcune imprese e poi si mette a confronto questo caso soprattutto con le recenti minacce al leader di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, anche lui bresciano e ora sotto scorta, e al presidente degli industriali di Bergamo, Stefano Scaglia. In questi precedenti però c'erano messaggi sulla gestione del Covid e la rivendicazione dei nuclei proletari lombardi. Niente di tutto ciò invece nel pacco inviato a Pasini, a cui giunge la solidarietà corale del mondo delle imprese, del sindacato e della politica. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo dell'esame di Luis Suarez, l'attaccante del Barcellona, commosso, ha lasciato per l'ultima volta il centro sportivo del Barcellona, squadra che sta appunto per lasciare, per approdare probabilmente l'Atletico Madrid. Sembra lontana l'inchiesta sul suo esame di italiano all'Università di Perugia, però intanto è stato contestato anche al direttore generale dell'Università, Simone Olivieri, il reato di concorso in corruzione ipotizzato già a carico della rettrice Giuliana Gregobolli, perché appunto secondo la Procura di Perugia questo esame è stato una farsa. Parliamo della strage di balene in Tasmania. Almeno 460 balene sono andate ad arenarsi su una spiaggia delle scoscese tempestose coste della Tasmania. Nell'arco di un paio di giorni ne sono già morte oltre 380, mentre i soccorritori sono impegnati senza sosta nel tentativo di salvarle il più possibile, spingendole di nuovo in mare aperto, cosa particolarmente difficile. Uno sforzo enorme considerato che si tratta di mammiferi che possono arrivare a quasi 8 metri di lunghezza e oltre 3 tonnellate di peso. Mentre una notizia positiva, simpatica per gli animali, è questa che torna a Roma il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale. La kermesse ha selezionato il meglio fra le centinaia di cortometraggi pervenuti dall'Italia e dall'estero. I corti hanno per protagonisti cani, gatti, conigli, cavalli, tartarughe, pappagalli, lucertole e tanti altri. Una buona notizia invece per gli umani: il cervello si rigenera anche in età adulta. La formazione di nuovi neuroni in alcune aree cerebrali, come l'ippocampo, avviene anche nelle fasi della maturità, e alcuni farmaci, come gli antidepressivi, ma anche l'attività fisica e il sonno, stimolano il fenomeno. Questo è quanto emerge da uno studio dei ricercatori dell'Università di Pisa, L'Aquila, Glasgow, e del IRCS Neuromed di Pozzilli, pubblicato sulla rivista Current Neuropharmacology. Lo studio, si spiega in una nota dall'Ateneo Pisano, apre nuove prospettive per curare alcune patologie psichiatriche, come ad esempio la depressione, mettendo insieme terapie farmacologiche e non. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines. Addio a un'icona della canzone francese, amica di poeti e musicisti, che ha incarnato l'anima più profonda di Saint-Germain-des-Prés, lo storico quartiere della Rive Gauche parigina, frequentato da artisti di ogni dove. Se n'è andata a 93 anni, una figura anche emblematica dell'esistenzialismo, una giovinezza marcata dall'impegno politico. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe. Ci sentiamo tra pochissimo. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchi di notizie, con la sintesi della giornata e poi gli aggiornamenti in diretta che vi do man mano, e naturalmente gli approfondimenti con gli ospiti. Vedo che, nonostante non mi sia dimenticata di darvi come sempre i vostri canali privilegiati per interagire con me con Effetto Notte, qualcuno scrive lo stesso: pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS WhatsApp, meglio WhatsApp, perché vedo che ormai gli SMS sono un po', diciamo, diventati arcaici. Il 349-238-6666, 349-238-6666. Dice un ascoltatore: Tino, avrei una proposta. Visto che sostanzialmente l'Europa, di cui sono fervente sostenitore, non vuole farsi carico di migranti e inventa questo escamotage di far pagare chi non vuole migranti, propongo che vengano riaperte le caserme sui confini austriaci per ospitare questi ultimi che poi decidono di scappare verso l'Austria, perché cita l'Austria, uno dei paesi, insomma, che si tirano sempre indietro di fronte alla necessaria solidarietà europea. Poi ne parleremo, adesso passiamo prima a un altro argomento. Vi ricordate che per tutto il periodo, i mesi terribili dell'emergenza coronavirus, lo mettevo alla fine di Effetto Notte per dire che avremmo vinto. Comunque avete sentito che Financial Times ha detto che, insomma, l'Italia è uno dei paesi che meglio al mondo ha gestito l'emergenza e anche questa fase. In realtà però in questo momento, in questa area della Turandot, riguarda la politica, perché il sindaco di Firenze Nardella pare abbia suonato il violino e abbia cantato, insomma, suonato la Turandot e quest'area, Nessun Dorma, accogliendo a Palazzo Vecchio Giani, cioè il neo eletto presidente della regione Toscana. Ha detto: l'ho fatto con grande orgoglio. Questo per introdurci quindi alla pagina politica. Saluto la nostra Emilia Patta del Sole 24 Ore. Ciao Emilia. Buonasera, buonasera. Sapevi che Nardella sa suonare bene il violino? Una volta l'ha detto anche qua in diretta, lo sapevi? No, veramente no. Che sorpresa. Lo conosco professionalmente da molti anni, però no, questo non lo sapevo. Quante qualità nascoste. Comunque, dopo l'attesa tornata elettorale di domenica e lunedì, cui ho dedicato appunto uno speciale di 2 ore di Effetto Notte, tra referendum e costituzionale e elezioni comunali e regionali, man mano i partiti, come stiamo raccontando in questi giorni, e i leader di partito in particolare, stanno prendendo coscienza di ciò che è avvenuto, quindi con vittorie, mezze vittorie, sconfitte, punti di forza, errori su cui riflettere. Allora, Zingaretti, per esempio, segretario del PD, che è andato bene, Toscana, Puglia, e che cresce anche il Partito Democratico, anche se ha perso le Marche, se in Veneto è andato molto male, a Venezia una sconfitta, e parla di un PD, Zingaretti, pilastro della coalizione di governo, che però adesso deve passare a azioni concrete, alla concretezza. Dice che un'alleanza più solida, ha insistito molto sul fatto che col Movimento 5 Stelle ci vuole un'alleanza a questo punto strutturale. Nel Movimento 5 Stelle grande soddisfazione, come sappiamo, per la netta vittoria del sì al referendum costituzionale, ma trionfalismo, diciamo, ed esultanza ieri guastato la festa Alessandro Di Battista, dicendo che in realtà quella delle regionali, a parte il referendum, è stata la più grande sconfitta della storia del Movimento 5 Stelle. Oggi però Fico, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle nonché presidente della Camera, ha risposto a Di Battista dicendo: quella di domenica non è una sconfitta storica, si va avanti con questo governo e questa maggioranza, e nel Movimento sono in corso forti tensioni tra governisti, rigoristi, in attesa degli stati generali. Però ieri, Emilia, sottolineavo che Di Maio ha detto ieri a Pomigliano: bisogna rafforzare l'alleanza, quindi l'alleanza PD Movimento 5 Stelle in vista del 2021. Tuttavia, Emilia, non è che tutti questi aspetti, diciamo, e questo sentirsi rafforzati e voler abbracciarsi ancora più forte risolva i problemi di fronte agli scogli comunque che ha la maggioranza, no? Dall'utilizzo del MES e decreti sicurezza. Che dice Emilia? No. Per niente. Paradossalmente, dopo le regionali sembrava che il PD con il segretario Zingaretti potesse imporre la sua agenda, ma proprio il cattivo risultato dei 5 Stelle regionali, che stanno pian piano, sembra quasi che stanno scomparendo, no? È vero che le regionali loro sono andati sempre in modo peggiore che il nazionale, però ormai è un trend abbastanza indiscusso, quello del calo di consensi dal famoso 33% del 2018. Quindi queste difficoltà dei 5 Stelle paradossalmente rendono più difficile passare all'azione sui temi del governo, perché i 5 Stelle hanno l'interesse in questo momento a essere tutti uniti, a evitare scissioni, no? La balcanizzazione totale del movimento in Parlamento, e quindi come sappiamo, quando la situazione è questa, la cosa migliore è non decidere. Sul MES infatti adesso il PD vuole passare all'incasso, però Conte frena proprio perché non vuole una spaccatura dei 5 Stelle in Senato. Oggi abbiamo visto la fiducia sul prolungamento dell'emergenza per il Covid è passata in Senato con 143 voti, che è pochissimo, la maggioranza in Senato è 161, quindi questi sono piccoli segnali sul fatto che le fibrillazioni interne possono aggravare i problemi della maggioranza. Quindi il MES andrebbe attivato, secondo il PD, anche subito, perché il fondo salva stati, ricordiamo. Un fondo salva stati da cui possiamo prendere 37 miliardi per l'emergenza sanitaria con un prestito a costo quasi zero, perché se non attiviamo il MES gli investimenti in sanità andranno inseriti in qualche modo nel Recovery Fund, che è l'altro piano di investimenti che stiamo trattando con Bruxelles, togliendo 20-30 miliardi, faccio un esempio, che saranno ad altri tipi di investimenti. Quindi non è una decisione banale, bisogna deciderla adesso, in tempo per la legge di bilancio di ottobre. Quindi insomma il tempo stringe, ma i 5 Stelle, queste loro divisioni vanno nella direzione contraria, quella del non decidere. Oggi mi ha colpito molto, ma credo che abbia colpito tutti, Grillo, no, che ha fatto questo suo show attaccando il Parlamento, rispolverando le vecchie democrazia diretta, la democrazia diretta, le vecchie parole d'ordine del movimento, l'acqua pubblica, tutto pubblico. Se vuol dare nuovo impulso, nuova energia, nuovi entusiasmi al Movimento 5 Stelle. Sì, perché però a ben leggere, in realtà Grillo sappiamo ormai che da molti mesi fa parte della corrente, per così dire, governista contiana. È lui che volle insieme a Renzi l'alleanza, no? Per il governo giallorosso. Appoggia questo tentativo di Maio di mettersi a capo di un correntone, no? Per saldare l'alleanza con il PD all'interno del governo Conte, ma anche in prospettiva. Quindi queste parole d'ordine del vecchio Movimento 5 Stelle che ha tirato fuori Grillo possono essere lette proprio come un tentativo di tenere tutti dentro, di placare l'ala di Battista. Senti Emilia, però in tutto questo Conte, che deve fare sempre da mediatore, no? Diciamo che ne è uscito benissimo, nel senso che lui sotto elezioni si era un po' defilato, tirato indietro, e adesso sembra che sia, anche se lui ieri ha negato, no, non ero né debole prima né sono rafforzato adesso, queste elezioni non hanno nessuna conseguenza sul governo, però in realtà diciamo che la sua figura è rafforzata e anche la legislatura, quindi visto che lui è il Presidente del Consiglio, andrà avanti fino al 2023, ma secondo te a questo la punto... la legislatura è blindata, ma anche lui a questo punto... Ma a questo punto lui deve pendere da una parte o dall'altra, decidere dove, se schierarsi tra PD e Movimento 5 Stelle, a chi dare più forza, insomma. In breve. Dovrebbe perché urge l'azione di governo, insomma, però la tendenza sembra di essere quella che abbiamo conosciuto nei mesi scorsi, di rimandare alcune decisioni importanti. La paura di Conte non è tanto, credo, nei 5 Stelle come futuro politico, perché insomma credo che Conte sia abbastanza intelligente da capire che il Movimento 5 Stelle è in una crisi probabilmente difficilmente recuperabile, però la sua preoccupazione è il governo, cioè la preoccupazione di Conte, se il MES dovesse passare in Senato con il supporto decisivo di Forza Italia, con i 5 Stelle che si spaccano, è chiaro che questo avrebbe un riflesso diretto sul suo governo, sul governo, quindi ha paura di questo, quindi vuole arrivarci, ma arrivarci in modo da tenere quasi tutto il movimento unito. Emilia, sentiamo Salvini come ha commentato a proposito della stabilità del governo. Non penso che questo governo andrà lontano perché litigano su tutto. I 5 Stelle sono scomparsi da interi pezzi d'Italia. Forse proprio per questo il governo durerà, diciamo. Per paura, cioè per paura di perdere la poltrona, ecco, che qualcuno stia al governo per 2 anni con la crisi economica che c'è, per paura di tornare a lavorare, mi rifiuto di pensarlo, dai. Emilia, poi va detto che Matteo Salvini, leader della Lega, è stato indicato da più parti come il principale sconfitto di questa tornata elettorale delle regionali, però sentiamolo parlare degli errori in Puglia e Campania rispetto ai candidati e alle campagne elettorali che hanno fatto. Gli elettori hanno sempre ragione. Se gli elettori ci hanno punito in Puglia e in Campania e abbiamo preso più voti nella rossa Toscana che non in Puglia o in Campania, dove il centrodestra in passato ha governato, vuol dire che qualcosa si è sbagliato. E in effetti nel centrodestra, passando adesso al centrodestra, Emilia, ci sono vari malumori, accuse, risentimenti, con il presidente riconfermato della Liguria, Giovanni Toti, che ha questo suo partito che si chiama Cambiamo. In un'intervista al Corriere della Sera ha detto Salvini potrebbe essere riprendo la dichiarazione, ai numeri ma non ancora la capacità di guidare la coalizione, dovrebbe togliersi la maglietta della Lega e indossare la giacca del capo. Dopodiché Salvini ha risposto, ma per togliermi la maglietta vabbè c'è tempo, allora Toti gli ha proposto una costituente, no? Per una costituente del centrodestra, una coalizione più ampia, omogenea. Sentiamo Salvini che cosa ha risposto sulla costituente del centrodestra. Ci sentiamo oggi, io volevo avere i dati prima, gli ultimi dati mi sono arrivati stamattina dei comuni, quindi coi dati precisi, definitivi che sono arrivati stamattina, oggi ci sentiremo con tutti. Perché Toti è anche rimasto male che insomma non erano arrivati i complimenti, la chiamata di Salvini dopo la sua vittoria, la sua riconferma. Come stanno le cose, Emilia? Perché c'è questa tensione tra Toti, Salvini, nel centrodestra c'è un po' di malcontento, no? Beh, c'è tensione perché nonostante quello che dice Salvini, il leader della Lega sa benissimo che questo risultato rafforza il governo e la legislatura. Tanto ricordiamo che il 1° luglio scatta il semestre bianco, per cui per 6 mesi non possono essere sciolte le Camere, quindi insomma è tutta una serie di incastri. Poi stanno per arrivare 209 miliardi dal recovery fund europeo. Tutta una serie di fattori esterni all'Italia che spingono verso la stabilità. Quindi Salvini ora è in un momento molto difficile, perché in questo Toti ha ragione: o smette la felpa, no? E si mette a fare il leader di una destra più moderata, oppure la sua leadership è destinata a declinare, come già un pochino si vede dai risultati della Lega. A proposito, Emilia, insomma, gli osservatori, no, tutti hanno centrato i riflettori su Zaia, che è stato eletto, esatto, con un plebiscito di nuovo riconfermato in Veneto come presidente. I voti, Zaia, sappiamo tutti, anche se lui nega, perché è stato appena riconfermato governatore, ci mancherebbe, che non vuole scalare i vertici e Zaia ha una leadership più rassicurante per i moderati, è un amministratore stimato anche dalla parte politica. Lo dice anche Renzi, guarda, sentiamo Renzi, esatto, di Italia Viva, che cosa ha detto su Zaia. Zaia è uno che sa prendere i voti, li ha sempre presi. Oggi il problema di Zaia è decidere che fare da grande. Ecco, bravo, ma è una cosa a parte rispetto alla Lega, suo politico insieme. Il 76% è sicuramente una cosa che va oltre la Lega. Zaia ha una carta da giocarsi davanti a Qual è? Che è quella di fare il leader della destra, di una destra più moderata rispetto a quella di Salvini. Se io fossi Zaia, mi giocherei quella partita lì, quella del leader della destra. Lo farà? Non lo so. È chiaro che per tanti mondi Zaia è più rassicurante. Cioè Zaia, pur essendo leghista da sempre, è uno che sull'Europa ha toni più sfumati rispetto a Salvini. Poi bisogna vedere anche se Zaia tira fuori il coraggio di farla una battaglia nazionale. Ci crede che Zaia dice che non ha ambizioni nazionali? No. No, è vero, ce li ha. Uno che ha fatto il ministro ha per forza ambizioni nazionali. Fa bene a dirlo perché deve dare questo ragionamento qui, ma insomma non ci crede nemmeno lui, ride sotto la mascherina. Oh, Emilia, allora dimmi proprio, abbiamo 40 secondi, secondo te Renzi dice tutto questo perché lo pensa veramente o perché in qualche modo questo fa riempire di rabbia magari Salvini, lo fa per dispetto a Salvini o in che senso? Renzi caratterialmente si diverte a far innervosire avversari, questo sì. Però in questo caso io ci leggo un'analisi più realistica, ecco, Renzi non ha secondi fini nel centrodestra, insomma, non credo che abbia ambizioni però ti sembra una lettura lucida, insomma, questa sembra una lettura lucida ed è vera. Qui praticamente Salvini da qui alla fine della legislatura inizia una sorta di traversata nel deserto, siccome lui la felpa blu non è capace di dismetterla, inizia di fatto da qui una lunga corsa alla leadership del centrodestra. Quindi Zaia è in pole e la mossa di Toti va letta anche in questo senso, in come direzione. A dire ci siamo anche noi, io sono ancora più moderato di Zaia, sono ancora più rassicurante agli occhi dell'Europa e dei moderati. È iniziata una lunga corsa. Lunga corsa, molti movimenti. Vedo Francesco che scrive al 349-238-6666, Salvini non ha più a disposizione due temi che come tutti i populisti aveva cavalcato, immigrazione di massa e sicurezza, senza questi diventa moscio e continua a perdere ovunque. Vabbè, questo è il punto di vista di Francesco, ci dobbiamo lasciare, grazie Emilia Patta, buona continuazione, grazie, buon lavoro. Buona serata. Ciao Emilia, pausa di riflessione come sempre a questo punto e anche di respiro, 349-238-6666 vi dicevo per i vostri WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, un giorno non potrete dire, a proposito di una notizia importante, questa non la sapevo, perché qui cerco di sintetizzarvele tutte nella prima parte e poi di approfondirne alcune con gli ospiti, naturalmente Roberta Giordano con voi come sempre dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22. Vi aggiorno su questa notizia arrivata poco fa a proposito delle tensioni fortissime in Bielorussia. Gli Stati Uniti non riconoscono Alexander Lukashenko, ormai al governo da 24 anni, che è stato rieletto con queste elezioni molto contestate per la sesta volta. Gli Stati Uniti ritengono che non sia il presidente legittimo della Bielorussia, lo afferma un portavoce del Dipartimento di Stato americano, sottolineando che le elezioni del 9 agosto non sono state né libere né corrette. Gli Stati Uniti non possono considerare Lukashenko il legittimo presidente eletto della Bielorussia. La stessa cosa ha fatto la Germania. Forse sarebbe meglio che un po' tutti i paesi, almeno dell'Europa, prendessero delle posizioni nette su questo. A proposito di Europa, oggi la Commissione europea ha lanciato il nuovo patto sui migranti, che prevede una riforma della Convenzione di Dublino e un meccanismo di solidarietà obbligatoria, che ha fatto abbastanza soddisfatti alcuni, molto meno altri. Il Presidente del Consiglio Conte ha detto è un nuovo inizio, un passo importante verso una politica migratoria davvero europea, bene, ma servono certezze. Su questo vorrei sentire la nostra Valentina Furlanetto. Valentina, ciao. Sì, buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori. Sì, il Presidente del Consiglio Conte si è detto soddisfatto, ha anche chiarito che bisognerà capire poi cosa fanno i singoli stati, no? Perché lo sappiamo, Roberta, quello che la Commissione propone poi deve passare attraverso l'Europarlamento, certo, e soprattutto attraverso il Consiglio Europeo. Quindi in realtà è solo un primo passo. Al 30 di questo mese ci sarà il Consiglio Europeo, lì si potrà capire in che posizione sono i vari stati. Sappiamo già che il gruppo di Visegrad, ma anche i Baltici, ma anche l'Austria sono contrari a qualsiasi tipo di solidarietà obbligatoria. E cosa c'è dentro questo patto? C'è una solidarietà obbligatoria a parole, obbligatoria, permanente, effettiva e costante, c'è scritto proprio nel patto, che gli stati membri devono mettere a disposizione nei confronti dei paesi di frontiera, quindi nei confronti dell'Italia, Malta, la Grecia, la Spagna. In realtà però questa solidarietà è attraverso un meccanismo volontario, cioè gli stati possono scegliere di accettare il ricollocamento dei migranti da questi paesi di frontiera oppure sponsorizzare, quindi pagare i rimpatri. E questo quindi non è il superamento di Dublino che l'Italia si aspettava. Sappiamo che è un meccanismo che vuole che lo stato di primo approdo sia lo stato dove il migrante poi chiede l'asilo. Il ministro dell'interno Lamorgese infatti ha detto: ci aspettiamo passi avanti che sia superato proprio nettamente il sistema di Dublino. E insomma la Commissione ha dovuto trovare un compromesso, no? Perché altrimenti sarebbe arrivata in Consiglio con un testo che sarebbe stato sicuramente bocciato. Invece questo è un testo un po' più morbido che potrebbe portare a un sì di Visegrad, anche se lo diciamo subito, già la Polonia e Praga e quindi Repubblica Ceca hanno già detto. Sì, la Repubblica Ceca hanno già detto che loro non ci stanno a ricollocamenti obbligatori, anche se di fatto non sono obbligatori, tanto più che non ci sono sanzioni. Infatti, se uno stato si tira indietro. L'obbligo non sembra che ci sia, e quindi sarà. Sì, piccoli passi, vedremo come sarà possibile. Passi. Piccoli passi. Conte ulteriormente ha detto: ora il Consiglio Europeo, dicevi, coniughi solidarietà e responsabilità. Serve certezza su rimpatri e distribuzione. I paesi d'arrivo non possono gestire da soli i flussi a nome dell'Europa, come sempre. Insomma, il problema rimane sempre un po' lì. Giustamente tu dici comunque un primo passo. Ti chiedo una cosa per chiudere, Valentina. Sì. Poco fa la Francia si è appellata all'Italia affinché lasci sbarcare la nave umanitaria di Sea-Watch, la Lancurdi, con oltre 130 migranti a bordo. A Lancurdi, che attualmente è in rotta verso Marsiglia, quindi un porto francese, esatto. Però sì, vogliono che l'accolga l'Italia. Perché questa richiesta? Allora, la Sea-Watch è stata al largo di Lampedusa per giorni. A un certo punto si è resa conto che dall'Italia non arrivava un via libera e quindi si è diretta verso Marsiglia, che a quel punto era un porto di sbarco più sicuro. Ma sai, c'è sempre un rimpallo di responsabilità. Già questo fa capire, insomma. La Francia si è appena detta disponibile ad accettare nel suo territorio 500 minori dal campo migranti di Moria, che ha subito in Grecia quell'importante incendio. Quindi alla fine da una parte dà e dall'altra però si tira indietro. Del perché si tira indietro non c'è un motivo vero e proprio. L'ONG Sea-Watch non è francese, quindi si può tirare indietro per una questione di bandiera dell'ONG e della barca e della nave, però allo stesso tempo si tira indietro anche l'Italia per queste stesse ragioni. E in questo caso c'è sempre purtroppo questo braccio di ferro con il patto per la migrazione. Secondo la von der Leyen non ci sarà più questo braccio di ferro, in realtà è tutto da vedere, perché tra l'altro il patto riguarda soprattutto i rifugiati, no? Il ricollocamento dei rifugiati, e noi sappiamo non che i migranti economici la maggior parte non arrivano con le ONG, arrivano da soli con barche, piccole barche. Quindi diciamo, Valentina, per chiudere, anche se aspettiamo per carità con fiducia che siamo sempre un po' alle solite, ma vediamo un po' cosa succede nei prossimi giorni. Grazie Valentina Furlanetto. Grazie a voi. Ciao Valentina. Ciao. Aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, sempre con voi, continuiamo ad approfondire le notizie, anche se un ascoltatore, gli abbiamo risposto quindi poco fa, mentre stava scrivendo lui stesso il messaggio, dice il patto dell'Unione Europea non cambia nulla perché parla di profughi e non di immigrati clandestini o di migranti economici, almeno quello che ho capito lo potete chiarire, ma infatti ancora prima che scrivesse lo abbiamo chiarito. Adesso invece soffermiamoci sul terribile duplice omicidio di Lecce dei giorni scorsi, di Daniele De Santis, un arbitro conosciuto a Lecce non solo, e della sua compagna Eleonora Manta, che aveva vinto un concorso all'INPS, laureata in giurisprudenza, era una coppia felice che stava preparando la casa dove andare a convivere. Sono stati uccisi a coltellate lungo le scale di questa palazzina e oggi un uomo di 37 anni residente ad Aradeo è stato ascoltato per alcune ore in procura a Lecce. Allora vorrei che ci raccontasse che novità ci sono Claudio Tadicini, cronista di Corriere del Mezzogiorno, che ringrazio della disponibilità. Grazie Claudio. Buonasera a voi. Allora, sì. Le ultime novità in realtà, ora purtroppo anche terribili certezze, arrivano dall'autopsia che è stata eseguita oggi pomeriggio su Daniele ed Eleonora, che conferma che siano stati trucidati, ossia massacrati da una furia omicida incontrollabile, da una violenza inaudita di un assassino che ha inferito sui loro corpi decine di volte, scagliandosi ferocemente in particolar modo su quello della giovane. L'autopsia che peraltro sarà conclusa domani con ulteriori accertamenti medico-legali, però che conferma appunto la ferocia dell'omicida. Quanto al 37enne di Aradeo, di cui si parlava prima, la notizia è stata smentita. Si trattava, diciamo così, di una soffiata che girava fin dalla tarda mattinata e che riguardava per l'appunto il coinvolgimento di questo 37enne di Aradeo di nome Andrea, ossia lo stesso nome che i vicini di casa hanno sentito urlare dalla ragazza prima di essere colpita a morte, che era stato accompagnato in procura per essere interrogato perché sospettato appunto dell'omicidio. La notizia è considerata che le indagini sono condotte nel massimo riservo. Anzi, l'unica dichiarazione degli inquirenti è stata appunto quella di smentire questo sospettato, dicendo che non c'era nessun fermo e che in procura e in caserma c'era l'attività di interrogatorio. Quindi da questo punto di vista non c'è nessuno sviluppo, quindi a parte l'autopsia che appunto purtroppo ha fatto emergere questa ferocia come raccontavi tu, Claudio, per il resto nulla di più al momento? Al momento nulla di più. Il movente, si battono due piste, considerando il massimo riservo scelto agli inquirenti, si tratta sempre di ipotesi. Le piste più battute sono quella passionale, dunque che avrebbe trasformato un corteggiatore magari respinto in questo brutale assassino, e quella economica, per lo più legata all'attività lavorativa di Daniele, che comunque oltre ad essere uno dei giovani arbitri italiani più promettenti era anche amministratore di condominio. Quindi tutto può essere in realtà, queste le piste principali, ma insomma finché non si prende la persona, il colpevole, è difficile definire in effetti. Senti, quindi le autopsie sono state concluse tutte e due, dicevi o no? Una prima parte che si è concentrata prevalentemente su Eleonora. La parte esterna, no, su entrambi, l'hanno fatto entrambi. Si è concentrata in particolarmente sul tipo di ferite, su quante ferite, sul tipo di arma. Domani, come detto, proseguiranno con ulteriori accertamenti medico-legali. Non sono... Claudio, l'unica cosa è che appunto si sa che si chiamerebbe Andrea questo assassino, perché appunto secondo i testimoni della palazzina hanno sentito Eleonora che continuava a urlare Andrea basta, e qualcuno avrebbe visto un individuo con una tuta nera da motociclista e uno zainetto giallo, no? Questo è stato confermato? Esatto. Stando al racconto dei testimoni, ossia dei condomini del palazzo in cui si è consumata la tragedia, questo giovane sarebbe stato visto fuggire con il coltello in mano, il cappuccio di una felpa nera in testa, e indossava dei guanti ed aveva sulle spalle un zainetto di colore ocra. Fuggito a piedi, parte della fuga sarebbe stata anche immortalata da alcune telecamere. Speriamo che quindi si arrivi a prendere il colpevole. Claudio, quindi mi affiderò a te per ulteriori aggiornamenti, se vuoi, nei prossimi giorni, se puoi. Volentieri. Grazie e buon lavoro a Claudio Tadicini, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Ciao Claudio. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Ora invece chiedo al nostro Dario Ricci se sa come si dice truffa in spagnolo. No, no, come si dice? Come si dice? Fraude. Fraude, vabbè, allora, fraude. Dai, allora praticamente parlo lo spagnolo come Suarez l'italiano. Come minimo, lui non so che parole sappia. Noio volevan savoir, noio volevan savoir, tanto per citare Totò e Peppino che mi sembrano i due che meglio incarnano lo spirito di questa vicenda. Certamente, no? Abbiamo detto parte grottesca e parte ingiusta, perché sappiamo che tanti aspettano in Italia la cittadinanza da anni, lui invece, essendo un milionario calciatore, sembrava che potesse far subito così. Sì, abbiamo scoperto da un paio di giorni che il mondo è cattivo e ingiusto. Ecco, questa insomma è stata la prima incredibile. Esclusiva mondiale, va bene. Però parlando delle cose serie, no, so che volevi sollecitarmi un po' su questa il caso di Suarez, che so che adesso anche non solo c'è una inchiesta della procura di Perugia anche sulla stessa università per gli stranieri di Perugia, ma anche un'inchiesta della FIGC. Sì, la FIGC ha aperto tramite la sua procura un'inchiesta e vedremo quali saranno le evidenze che eventualmente verranno riscontrate. Chiaramente la Juve si è defilata, no? Da questa vicenda, perché diciamo, gli coinvolti dal punto di vista penale sono tutte figure apicali dell'Università di Perugia. Però l'avvocata della Juventus ha detto sì, ci sono state intercettazioni, ma sono state estrapolate in modo errato, perché io non ho chiesto favori, ho detto che ci fosse la giusta severità in questo esame dell'italiano. Beh, è chiaro che sappiamo bene anche dal punto di vista deontologico che le intercettazioni che leggiamo sono delle trascrizioni. Gli inquirenti chiaramente sapranno e dovranno anche calarle nel contesto, no? La legale Maria Turco, l'avvocato torinese che lavora nello studio Chiusano e che era stata ricordiamo, non è tra le persone indagate nel caso, ma era stata appunto il tramite con le istituzioni, con i vertici dell'Università di Perugia. Oggi è diffusa una nota in cui chiarisce, appunto, come sottolineavi, anche la sua posizione, il suo ruolo di punto di collegamento. E poi è chiaro, rimane un po' l'eco di queste frasi, no? Dice: ma se tutto andrà bene, sintetizzo, torneremo sempre da voi per casi di questo, di questo tipo, no? Stranieri. Però è chiaro che, insomma, diciamo, da un lato vanno tutte appunto contestualizzate, da un lato dall'altro faccio l'esempio: se tu vai da una macelleria in cui ti trovi bene, dici che tornerai sempre prendere lì, le salsicce, insomma. Possibilmente esattamente. Insomma, diciamo che sono frasi che chiaramente solo gli inquirenti possono un pochino contestualizzare. È chiaro che la vicenda, oltre agli aspetti simpatici, ironici, credo che la battuta più bella sia stata quella sui social, in cui, facendo riferimento al famigerato morso che Suarez diede a Chiellini, noi nella sfida del 2014 a Natale, che ci costò il mondiale del Brasile, ed ero anche in tribuna, facendo riferimento a quel morso, si è ironizzato sul fatto che comunque l'italiano lo masticava. Povero Chiellini l'ha masticato, che era italiano. Sì, però sarebbe stato anche curioso vederli compagni di squadra, perché insomma alla Juventus tu magari giri e Zaccate che scompare un orecchio, una spalla, eccetera. Sì, insomma, comunque adesso Suarez commosso, oggi se ne va invece l'Atletico Madrid per chiudere. Sì, di fatto è imminente il suo passaggio all'Atletico, e insomma non è che casca male, perché dal Barcellona passa un'altra grande d'Europa, insomma. Sempre dei contratti milionari avrà. Molto bene, grazie al nostro Dario Ricci. Grazie a te. Ciao caro Dario, noi ci sentiamo, torno a Ratta come sempre come la Folgore alle 22. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.